Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sono oramai anni che viaggio in treno e vi racconto il mio arrabondare, il mio conoscere, il mio sondare, le mie domande, i miei dubbi. Un dubbio non lo sono mai tolto: ma chi guida il treno? Io non sono arrivato in fondo nel posto in cui c'è un guidatore. Lo guida qualcuno? È teleguidato elettronicamente? Ci sono delle persone che stanno lì, una sorta di illuminati che nessuno può vedere? O sono quelli che scendono, che hanno la stessa divisa di quello che ti chiede il biglietto, ti controlla se sei al posto giusto? Non lo so. Probabilmente la stessa domanda e la stessa curiosità se l'è fatta un altro signore. Ora, io avevo letto qualche settimana fa un libro che mi ha incuriosito. Parlava di uno che per 13 anni aveva guidato aerei senza brevetto, pilota abusivo, e quindi mi veniva in mente questa cosa, dico: ma può essere una storia? Esiste, non esiste? Sarà vero, sarà fiction? Quando ti vedo questo signore, che anche lui veste di blu, sembra quasi che abbia una divisa addosso, sembra quasi sia un antico retaggio dell'appartenenza a un'organizzazione, a un marchio, a qualcosa che ricorda comunque il vestito dei signori ti prendono il biglietto. Anche lui sembrava spinto alla mia curiosità, anche lui sembrava volesse rubare il mestiere a chi non si vedeva guidasse il treno. E ho cominciato a parlarci e mi sono reso conto che proprio lui è Thomas, è quello che per 13 anni ha guidato aerei di linea senza avere un brevetto di pilota. Allora, la passione dell'aereo è nata che praticamente sono andato una volta con mio papà fuori Stoccolma, dove c'è l'aeroporto, a vedere un picnic. Lui faceva fotografia. Sono andato a vedere l'aeroplano, prima volta 8-9 anni in linea, e per fotografare questa mi sono subito innamorato. Tu sei svedese, sei nato in Svezia, sì, quindi era la tua Stoccolma. Città? Sì. Tuo padre ti ha portato a vedere gli aerei, ti hanno appassionato. Tanti giovani, sai che quando sei giovane vuole fare vigile del fuoco, vuole fare pilota, polizia, te. Abbastanza normale, però questa passione per me è diventata una cosa, passione vero, forte forte. E quindi ancora il bambino, quindi cosa fai, giocavi con gli aeromodelli, ti facevi i modellini? Sì, Lego, c'era Lego, tutta la mia vita diciamo era dentro il contorno dell'aviazione, e non per pilota, diciamo, a fare pilota militare, mi era più per fare pilota civile, vedere il mondo. Sì, però finché giocavi con il Lego non facevi danno, poi invece hai cominciato a pensare a farlo veramente. Vabbè, dopo sai, danni non è mai successo niente quando volava. Ovviamente, quando è che hai volato? Che hai volato la prima volta? Quando l'hai fatto? Il battesimo dell'aria? Battesimo dell'aria, vabbè, in Air One, fatto 97, Milano-Napoli. Però guidava un altro l'aereo, pilotava un altro ancora. No, io. Tu pilotavi te? Io ero copilota. Sì, ma come ci sei arrivato? Io sono ancora il bambino che giocava con il Lego e faceva gli aeroplanini. E adesso mi dici che anni dopo tu guidavi un aereo di linea in una rotta che finiva, atterravi a Napoli. Ecco, in mezzo cosa c'è in mezzo a questo passaggio? Questa è una lunga storia, però diciamo, durante i miei anni di crescita io sono anche avuto la fortuna di fare a barca a vela, perché viveva vicino al mare, eccetera, faceva windsurfing. Mi interessava molto anche della navigazione, anche della meteorologia, che è molto importante. Comunque io studiavo il mio mondo, aviazione, da quando, diciamo, durante la mia crescita. Mia mamma è morta quando era 17 anni, io sono unico figlio, mio papà ha trovato un'altra donna, c'è avuto un po' di problemi familiari, diciamo, in questa periodo. Io comunque non potevo fare il mio sogno. Ho avuto poi soldi per fare la prima brevetto con una Cessna 152, 30 ore di volo. Un piccolo aereo, diciamo, da turismo. Monomotore, sì. Poi comunque non c'è più soldi che continuare neanche a mantenere il brevetto, perché bisogna volare un ex. Come tu un brevetto ce l'hai, il brevetto civile, il primo brevetto per guidare... Ce l'aveva una l'aeroplano privato, vedere visuale, perché cioè, comunque non c'entra niente della... Quindi non facevi volo strumentale, niente, salivi, no. Andavi con l'aeroplanino, giravi un po' intorno all'aeroporto e atterravi, ecco. 35 ore è fatto. Sì, va bene, ti sei esercitato. Poi? E poi, va bene, io, diciamo... Quando sei teenager così, provato a fare la musica, provare a fare altri lavori, provare a fare altre cose, però dentro me c'era sempre questa voglia a continuare a fare pilota, però non c'era la possibilità, non c'era la possibilità di studiare, perché costa tanto in Svezia e pensare in tutto il mondo. Allora io per caso una volta, era tipo 22 anni, chiamato la SAF Flight Academy, dove hanno il simulatore. Sì. Io della Bologna sono Thomas Alme, sono un pilota, però mi serve fare addestramento perché cerco lavoro, non ho lavoro. Quindi loro... diciamo vuoi fare una sorta di addestramento, di consolidamento diciamo della allora, tua capacità. Io ho capito che durante questo simulatore che anche all'Italia hanno giù a Roma, che questa grande centro addestramento che... Ma non ti hanno chiesto nessun documento, niente? Non allora, hanno... io ho chiamato alle 11 la sera, vuol dire che ci sono tecnici che lavorano là, tecnici del simulatore che non c'entra niente, piloti. Allora io ho chiamato, pensa che questa è anni 90, metà 90, 95, 94, in Svezia, un paese una volta senza terrorismo, dove niente, abbastanza tranquilli. Si sono fidati, insomma, si sono fidati. Bravissimo. Io sono andato, mi sono comportato bene, mi sono seduto in questa 737, ovviamente non capiva niente, mi hanno lasciato di là. E dopo mi sono preso. No, scusa un attimo, scusa un attimo, Thomas, ma nessuno si è accorto che tu non avevi mai pilotato. Entri nel simulatore, sì. Non sapevi nulla te di quell'apparecchiatura. Vero, vero, perché loro mi hanno detto che aeroporto mettiamo dentro il simulatore. Diceva, loro possono scegliere con computer. Io ho detto, mettimi New York John F. Kennedy. Ah. Lui è andato all'altra simulatore a lavorare, fare manutenzione durante la notte. Io stavo là 3-4 ore da solo, senza fare nulla. Diciamo... Sto studiando. Sì, ma come hai fatto a imparare? Cioè, quante volte ti sei schiantato con il simulatore prima di capire come si decolla e come si atterra? Cosa è successo? Prima volta non ho fatto niente, toccato neanche un bottone. Dopo mi hai preso confidenza, copiato il manuale. Ah, hai studiato col manuale, sì. Poteva tornare dietro. Dopo, diciamo, un percorso come una scuola, però fatto da me. Ho provato a fare seguire... Autodidatta. Diciamo, bravissima. Tu hai imparato a guidare col simulatore, come fosse un videogame. Bravo. Ci sono dei videogame che bravo, c'è il simulatore, bravissima. È la stessa cosa. Bravissimo. Punto basta, mi sono arrivato a un punto dove io sentivo che voleva far vedermi da una compagnia, ha detto che vediamo se riesci a fare questo percorso pilota. Cioè tu hai usato il simulatore imparando da solo a usarlo, ci hai giocato praticamente come fosse un videogioco per un po' di tempo e poi hai detto sono pronto per guidare un aereo vero. Io ho detto io mi sento pronto, vuole vedere cosa dicono in compagnia aerea. E non t'hanno, anche lì non ti hanno chiesto nulla. Allora io ho cercato lavoro, conoscevo un sacco di gente italo-svedese, diciamo italiani che vivono in Svezia, che mi piaceva. Simpatici, che c'erano al ristorante, un popolo. Io non parlavo italiano, non sono mai stato in Italia prima, però mi piaceva. Allora c'era una pubblicità che Air One cercava come piloti, io mi sono buttato, mi ha mandato un curriculum, ovviamente non vero. Finto, un curriculum finto. Sì, abbiamo fatto male, anche un brevetto che non serviva, fatto, non è come io ho copiato da un'altra, ho fatto un brevetto che cioè, non esiste. Cioè, hai fatto un documento falso, ma... Non sì, ti hanno chiesto poi dei documenti ufficiali, delle credenziali? Sì, prima cosa che fate da One, prova il simulatore ovviamente. E che tu il simulatore ormai eri un dio, eri bravissimo. No, bravissimo, è andata bene comunque, perché è un feeling, è andata bene. E che aeroporto ti hanno assegnato al simulatore? Sempre John Kennedy? No, perché là era il mio sogno, perché vedere John F. Kennedy è uno dei più grandi aeroporti. No, il sogno che hanno messo qua a Milano lì nato, perché c'era il pilota del comandante dell'Air One che è venuto da... Vabbè, tu ti hanno fatto fare un girettino col simulatore. Bravissimo. Te la sei cavata e hanno detto va bene. Va bene, benvenuti in Italia se vuole. Dopo un paio di mesi, dopo... Devo fare, verificare tutti i miei... della scuola, che sono passaporto. I titoli, vabbè, questo, ma anche una visita medica avranno fatto, una prova di attitudine, no? Sì, sì, visita medica, ha fatto la IML a Milano e passava sempre. Andata benissimo, stavi bene. E allora sono cominciato come tutti in una compagnia nuova, come copilota. Tu hai fatto il copilota in Air One, per quanto tempo? Due anni. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Tu pilotavi pure l'aereo? Certo. E il tuo collega non si è mai accorto che tu, praticamente, no, era la prima volta che prendevi in mano una cloche? No, no, nessuno. Cioè tu tranquillamente atterravi, decollavi, facevi tutte le operazioni di volo, quello vicino dice, oh, bravo, così, non diceva nulla. Beh, è andata bene, sì. Ovviamente se aveva la mia, diciamo, mano, sai, ognuno è bravo a fare qualcosa, mano per volare ce l'aveva. Perché dopo due anni... Hai avuto momenti di difficoltà in cui c'erano magari delle... Sì. E le hai superate tutte. Dimmene una, ad esempio, quando sei trovato in difficoltà? Sì. Allora, io dopo due anni è diventato comandante. E quando dopo... Sei diventato comandante? Sì. E come hai fatto? Allora, questa è la compagnia che sceglie. Loro eri bravo? Sì, ero bravo. Comunque, è diventato comandante. E io ero una delle comandanti dopo un anno che faceva volare per Pantelleria Reggio Calabria, dove anche di là la compagnia sceglie certi piloti. E una volta a Pantelleria mi sono preso un uccello in motore, dove ho rotto il motore per atterraggio. Beh, è una cosa complicata, bisogna sapere cosa fare in quell'emergenza, non ti entra l'uccello nel motore. Sì, sì, perché certo che come io sono anche fortunato perché volate 13 anni, però anche ovviamente... Quindi hai fatto un atterraggio con un motore in meno, cosa è successo? Sì, esattamente, prima atterrare e poi la pista abbastanza corta a Pantelleria, piccolo. Va bene, è andata bene, diciamo, una cosa che si fa addestramento. Ma quanti passeggeri avevi a bordo? 150-160. Ma pensa se avessero saputo che tu non eri un pilota. Però sì, allora, sapevo guidare, certo che... No, ascolta, allora io dico una cosa. In la vita non fare come ho fatto io. Però qualche volta, lei lo so, e se lo sanno tutti, che purtroppo non è la carta che fai. Sì, bravatura. Sì, non ci piove tu. Poi quanto ancora hai volato? Poi ho volato per 13 anni, 10.000 ore di volo, passato di volo. Quindi ormai nessuno sarebbe mai più risalito al fatto che tu non avevi nemmeno il brevetto. Ormai era sicuro, tu eri un pilota a tutti gli effetti. Sì, quello ho lavorato in altre compagnie, inglese, olandese, turco, eccetera. Fin come hanno preso 2010. E quando ti hanno scoperto? Come ti hanno scoperto? Mi hanno scoperto che praticamente loro sapevano qualcosa che non è andato, c'era qualcosa errore del mio brevetto. La... Ma polizia, questo chi? I turchi? No, olandese. Agli olandesi. Gli olandesi sono stati gli unici a capire che qualcosa non funzionava. Vabbè, unici non so, però anche non so come mai, però loro hanno verificato, però non sapevano la storia. Ma qual era lo sbaglio che hai fatto? In cosa hai sbagliato? Come mai se ne sono accorti? Ma ascolta, era grande errore, non c'era un timbro su questo brevetto che io ho creato, non è come io, diciamo, falsificato un'altra. Allora, non c'aveva un timbro, è sbagliato tante cose, è fatto male, proprio una... Ma non potevi fatelo un po' meglio? Cioè, dopo tanti anni che guidavi, a questo punto vai da un falsario e ti fai un brevetto come Dio comanda. Non so, io, questo purtroppo è sempre strano, però non mi piace fare queste cose, non sono il mio mondo, però volevo fare questa e poi sono andato avanti. Cioè tu pensavi, finché va bene vado avanti, senza forzare niente, e se va male pazienza. Beh, io sono dopo tanti anni, vedeva che io comunque passava, il mio punto di vista morale è che io passava sempre le prove, ogni 6 mesi il simulatore e la visita medica. Punto di vista morale, nessuno può dire niente. E che t'hanno fatto? Quando t'hanno scoperto, come t'hanno detto? Come te l'hanno comunicato? Dimmi il momento in cui t'hanno detto abbiamo scoperto tutto. No, allora loro hanno scoperto che c'è qualche errore quando devo fare un volo la sera da Amsterdam a Ankara, notturno. Io ho capito che ormai adesso è finito, è meglio dire tutto, come se andare a confessarsi. Allora, e loro di là erano scioccati perché non sapevano neanche che era così, questa, diciamo, abbastanza grave comunque, che una persona vola messa al mondo senza un brevetto. E che ti hanno detto? Non ci credevano? No, erano con bocca aperta. Seconda giornata è arrivato il capo della polizia, che è stato autografo, perché ha detto che è una storia incredibile. Poi mi hanno verificato che se la mia storia era vera, che dove ho lavorato, come che era io, eccetera. E poi mi hanno fatto 2.000 euro di multa. Ah, solo questo? Come ti sei cavata con 2.000 euro alla fine? Sì, grazie a Dio, sono fortunato. Lo so che sono fortunato, però... No, no, figurati. Cioè, tu, cioè, hai preso per il culo per quanto? Per 12 anni tutte, no, le compagnie... Pagava la tassa quando volava in Arwan, come... Non è come... Sì, però... Io sono abbastanza fiero in una vita, però se non voglio fare come voglio io. No, no, no, per dire, nel senso che probabilmente hanno preferito tenere basso profilo, perché poi alla fine ne dovevano rispondere tutte le compagnie che ti avevano abilitato a volare. Bravo. La colpa era loro. Sì, sì, questo è vero. È meglio, meglio insabbiare tutto e stare zitti, perché venisse mai fuori che una compagniera fa volare i suoi passeggeri con uno che non è un pilota. Capisci l'enorme impatto che avrebbe avuto questa notizia? Sì, sì, certo. Ma è una cosa grave in sé, perché se io volevo, se io ero una persona che magari voleva fare male alle gente, allora, lo sai, con 150 passeggeri a bordo, come fate questa Tedesco? Quindi non hai avuto nessun tipo di strascico legale, denuncia, niente, una multa? No, c'è nessuna compagnia mi ha denunciato, al contrario, mi hanno fatto interviste anche delle colleghe, ex colleghe Air One, del capo pilota, mi mandano su Facebook, Tomà, sei un grande, cosa vuol dire? Questa è la... E adesso, la tua vita cosa fai adesso? Adesso faccio, vabbè, ho cominciato a fare fotografia, che ho fatto tanti anni, ho fatto foto a moda, adesso ultimamente faccio film documentari dove non serve licenza. Ah, solo che si prende la licenza, mica ci vuole una licenza per fare i documentari. Ma esattamente, non serve niente. Non serve questa niente. Lavoro e avventura, faccio ex agente FBI al narcotrafficante in Colombia, questa mi piace. Cioè, hai fatto il narcotrafficante in Colombia? Non ho capito. Allora, la prima film che ha fatto documentario. Ah, un film sul narcotrafficante. Documentario, bravissimo. E un adesso con. Comunque, c'è 2 o 3 progetti che devo uscire. Questa... Senti, hai mai più ripreso in mano un aereo così di nascosto, piccolino, magari? No, mai. Manco in Colombia, così tanto chi ti controlla. No. No. Sono proprio, l'unica cosa che vado ogni tanto è il simulatore, che mi invitano a fare il simulatore, che mi gioca così, che va benissimo. Non ho proprio voglia. Ma usi anche il drone per fare i tuoi documentari? Sì, sì. Ah beh, quello almeno lo puoi usare tranquillamente. In America sì. In Italia non si può, ci vuole una licenza anche per quello. Esattamente, esattamente. Però io faccio film americani, siamo in inglese. Faccio ma pensa film al paradosso se ti beccano che c'hai il drone e magari ti fanno una multa per il drone, tu che hai guidato gli aerei per tanti anni. Lo so. Vabbè, caro, in bocca al lupo. Mi tengo bene a mente la tua faccia. Tante volte volando ti vedessi a pilotare un aereo, ti denuncio subito. Stammi bene, buon viaggio, ciao. Grazie, ciao. Salve, ciao. Ciao. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Avete presente il tormento di un essere umano? Colui che suda, si guarda intorno, è agitato, non sa esattamente come incrociare le gambe, dove mettere le mani e soprattutto osserva con concupiscenza e cupidigia le passeggere che gli stanno accanto. Non è un compulsivo, non è un molestatore, è semplicemente un uomo in cerca di compagnia. Io sono vado molto sui social network, sì. Io sono un single di ritorno, sono separato, sono dovuto uscire da casa mia in mezz'ora, ho fatto le valigie in fretta, sono ritornato a casa. Cioè, ti hanno messo la porta a casa oppure è una tua scelta? No, diciamo che il menage matrimoniale era talmente brutto, era diventato talmente brutto che sono dovuto uscire in mezz'ora, sì, sì. Ma come, è stata la naturale conclusione di una crisi durata anni. Insomma, ma l'elemento scatenante, qual è stato? La fine dell'amore tra me e la mia moglie, la mia ex moglie, è stato da parte mia la caduta del desiderio. Piano piano non l'ho più desiderata fisicamente. Non ti voglio svelare universi che magari ti mettono in crisi o ti risollevano, ma succede sempre così. A un certo punto succede sempre, non siamo stati bravi allora lei e io a sostituire a questo qualche cosa d'altro. Abbiamo avuto tanti problemi lavorativi, sia lei che io, e ci siamo fatti avvelenare la vita, li abbiamo portati in casa, insomma. Dopo quanto tempo è successo questo, che stavate assieme, che eravate sposati? Ci siamo conosciuti nel 96, un anno di fidanzamento, perché vivevamo in città diverse, e nel 97 siamo andati a convivere. Nel 2001 ci siamo sposati, nel 2013 ci siamo separati. Ah beh, diciamo un arco di tempo plausibile. 17 anni, di cui 16 di convivenza, è stata di gran lunga la storia più importante della mia vita. Mia moglie è stata la prima donna da alcuni punti di vista, insomma è stata veramente la mia prima donna. Con lei ho conosciuto per la prima volta una vita sentimentale, affettiva, sessuale, insomma. Qualitativamente, quantitativamente, pensa che fortuna adesso potrei... bella, appagante. Pensa che fortuna, potrei rimpiangerla per il resto della vita adesso. Guardi, io sono un campione di rimpianto e cintura nera di malinconia. T'ha messo alla porta, insomma, perché sennò alla fine... Tradimento da parte mia, io pensavo che fuori ci fosse qualche cos'altro, che chissà che cosa. Poi, come dice mio nonno, invece più boschi si girano, più lupi si incontrano. Io ho pensato a un certo momento che mi stavo perdendo chissà che cosa, chissà quali emozioni. Stato scoperto, lei mi ha reso pan per focaccia. Si è fatto beccare col sorcio in bocca, come si dice. Porca miseria, sì, come uno scemo. Sì, certe cose si fanno da professionisti, non si fanno. Guardi, quante volte l'ho detto, quante volte me l'hanno detto, ma forse a un certo momento avevo perfino il desiderio di essere scoperto. Non lo so, non voglio fare lo psicologo tanto al chilo. Ma com'è che ti ha scoperto? Qual è stato il passo falso che hai fatto? Beh, un sms su un telefonino che per lei doveva essere inarrivabile, perché era il telefonino di mia madre. Vabbè, un sms, cosa diceva l'sms? Ci vediamo alla data ora, al dato luogo. Vabbè, scusa, tu potevi inventarti una scusa. Che... Ma secondo te non me la sono inventata, solo che lei non l'ha bevuta, insomma. Poi devo dirti che insomma c'erano tante altre cose, insomma. Ma alludeva ad atti penetrativi, queste cose qua, semplicemente vediamoci, potevi vederti con un'amica, con una cliente. No, insomma, ti desidero. Adesso sinceramente il testo non me lo ricordo. Ma era ambiguo questo. Non me lo ricordo. Io di solito, devo dire la verità, non mi lascio andare tanto spesso nel quello che si chiama sexting, scrivere messaggi sms volgari o comunque non vagamente allusivi. Però lei alludeva, alludeva. Insomma, probabilmente sì. È un disastro, non dovrebbe mai cascare questo. Poi anche lei si è fatta scoprire, Lei doveva renderti pan per focaccia e doveva farti soffrire. Ma c'è riuscito perfettamente. E come è fatta a scoprirla lei? Dunque, lei è uscita una sera con una scusa, proprio forse quella di buttare la spazzatura. È stata via non so quanti minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Vabbè, dai, un quarto d'ora che potrà mai fare? Ho dovuto smaltire. Sono sceso, era lì che telefonava nell'abitacolo della sua macchina. Ma che vuol dire? Ho chiesto con chi stesse parlando, lei ha inventato una scusa, insomma. Atto di adulterio, telefonava. No, adesso la storia per me, ti chiedo scusa, è dolorosa, mi sono rivolto a te anche perché io sono andato da un investigatore privato che mi ha portato il DVD con immagini eccetera, di un signore sposato anche egli, due figli, bla bla bla. Beh, meglio, almeno non si potevano sposare più fra di loro. Assolutamente. Ma magari, scusa, era solo una storia di sesso, poi finiva. Però, ti importa, però non era abbastanza. Sentimentalmente però, dai, il menage era finito, insomma. Devo dire che adesso tra me e la mia ex moglie i rapporti sono ottimi, siamo veramente due persone molto ben educate, abbiamo a cuore l'educazione di nostro figlio. Ci stimiamo a vicenda, al momento siamo nella norma. Te hai ristufato il matrimonio, era finito, insomma, non ci prendiamo in giro. Te per primo hai messo il naso fuori del recinto. Porca sacro. Miseria. Sì, sì, e questa è una cosa che non mi perdonerò mai. Volendo essere serio per un momento, ho fatto una grandissima stupidaggine. Ah, perché stupidaggine? Vorresti tornare indietro? Ho dei sensi di colpa. Senza colpa è l'ultima cosa di avere. I boschi si girano, più i lupi si incontrano, cioè, non è che poi abbia trovato chissà cosa. Io non lo so, tutti questi lupi, ho 63 anni, onestamente. Io ho 50 tra qualche mese. Sì, ma tutti questi lupi, non so, io non l'ho mai visti. Dove sono i lupi? Che vuol dire? Donne allupate? Magari, venga. E allora qual è il problema? Lupi perché lupi? Lupi nel senso persone non in buona fede. Volevano i tuoi soldi, il tuo denaro. Uscendo, questo adesso non è che io non sono mica Khashoggi, non sono mica. E allora che volevano? Volevano soltanto il tuo corpo. Queste persone volevano soltanto il tuo corpo, l'amore fisico e non il sentimento, questo è il problema tuo. Io mi riferisco alla persona più importante che ho incontrato dopo la fine del mio matrimonio. La seconda è importante. Sì. Se tu pensi che io ho convissuto con due persone nella mia vita fino ad oggi. A 50 anni. La mia ex moglie e lei, quindi insomma riflettendo su questo aspetto si capisce quanto è stata importante per me, anche se poi la durata della relazione è stata piuttosto breve. Quanto tempo? 7-8 mesi, ci siamo incontrati a settembre e ad aprile, a fine aprile lei mi ha scaricato. Vabbè, una storiella, 7 mesi non è una storia importante. È una storiella, convivevamo. Allora, scusami, ma non è che il problema è tuo? Di fidanzamento. Ma perché ti devi fidanzare? Come? Ma perché ti devi fidanzare con una donna? Aspetta, ti fidanzi e la porti a casa. Ma perché pretendi? Ma io lo so, forse, non lo so. Sono un inguaribile romantico, forse. Eh sì, non ma le donne so. Si rompono le palle dei romantici, è una cosa terrificante. Lo so, devo disintossicarmi, andrò dai romantici anonimi, dai gruppi di consapevolezza, di coscienza. Allora, guarda, se ti dico una cosa, che ho capito nella mia vecchiaia, se sei brutale, ma lievemente brutale, senza ledere naturalmente nessun diritto e nessuna, diciamo, dignità dell'altra persona, se sei brutale ti invocano disperatamente di essere romantico e poi centellinare una volta un romanticismo all'anno, una cosa del genere, costa poco, fa molto effetto. Sì. Ma se sei romantico si innamorano tantissimo se sei così. Questo è un altro problema, che ne so, se tu cerchi l'amore, trovatele che si innamorano. Poi mi sembra un po' difficile si innamorino, perché nessuno si innamora del romantico. Il romantico all'inizio dice che bello, finalmente un uomo romantico. Sì. E poi dice poveretto questo. Dice che palle, sì. Certo, è così, caro. Ma infatti probabilmente è andata così. Non l'ho ancora capita io questa cosa. Ma per te è fondamentale innamorarti, scusa, per frequentare una persona? Non lo so, te lo domando. No, per desiderare una persona, per stare insieme a lei. Ma no, per averci una storia simpatica, bella, allegra, leggera, divertente. Io ho incontrato una persona e sono stato assieme ad una persona che aveva molte qualità tutte insieme. Sì. E sinceramente non è che nella mia vita questo sia accaduto così spesso. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma l'hai portata te a casa tua o ti sei piazzato a casa sua? Sono andato io a casa sua. Ti stai dando la zappa sui piedi. Romantico, appiccicoso e ti piazzi, metti le valigie a casa sua. Ma dai, capisci? Guarda, sì. C'è qualcosa che non va. Tornassi indietro, certamente, farei solo il weekend, certo. Ma no, hai ragione. T'aveva chiamato lei, dice vieni a casa mia, caro, vieni a vivere da me. Oppure. Sì. Sì, ma le donne lo dicono così in un momento d'amore. Che bello sarebbe vivere sempre assieme. Ma scherza, non lo dicono mai sul serio. Guarda, dalla prossima, da ora in avanti farò tesoro di queste due parole. Senti, questa seconda, ad un altro invito mi tirerò indietro. Ti ha messo alla porta anche lei questa qua, ti ha detto vattene, basta, non posso. Dunque, lei mi ha detto o divorzi e mi sposi o altrimenti basta. Mi ha detto che era stufa di fare la fidanzatina, era stufa di ristorantini, viaggetti, che aveva bisogno, cioè voleva sposarsi. Ma perché non ti sei divorziato con la prima moglie, scusa, data la situazione? Eccola lì, bella botta anche questa. Un'altra cosa che mi viene giustamente fatta sempre. Scusa, non c'è più niente. Sono passati 4 anni perché non sei ancora divorziato. Ci sono alcuni problemi. Ma la mia moglie ha dei problemi di salute e non voglio angheriarla. Scusami, ormai vivete separati, sono vite separate. Lei ha le sue storie, tu le tue. Che state a fare così legati ancora da un matrimonio? Hai ragione. Tu speri sempre e torni con te. È un passo che devo fare, forse mi manca il coraggio. Forse... Ma coraggio di che? Non lo so. Ma lei non te l'ha mai chiesto, divorziamo? No, mai. Ma no, la mai. Mantieni, continui a mantenerla? Assolutamente, certo, sì. Se a te va bene questa situazione di gestione di un rapporto di separati però ancora uniti dal vincolo? Con la mia ex moglie, sì. La necessità del divorzio non la vedo. E allora di trovare donne che non si vogliono accasare, se no è inutile, lo chiederanno sempre, logico. Sì, è vero. Quindi vai con le donne già sposate, almeno stai tranquillo. Beh, le sposate hanno un piccolissimo problema che hanno il marito se si arrabbia cosa faccio? La vita è fatta di rischio, caro, mica può essere. Sì, è vero. Devi valutare fra i due rischi, quello di avere una donna sposata che il marito potrebbe saperlo e venirti a spaccare le ossa, e una donna non sposata che però ti obbliga a sposarlo, ti rovina la vita e il sistema nervoso. Non c'è terzo non dato, di terzo esiste solo. È un gioco, però nella teoria dei giochi si direbbe che è una opzione lose-lose, nel senso in entrambi i casi ci sono rischi. Mica da ridere, l'unico rischio è che ti fai frate o fai un voto di castità o te ne stai da solo. Guarda, quello non c'è rischio. Chi lo sa, può essere. Adesso vedo cosa mi succede con la crisi dei 50 anni o comunque con il 50esimo compleanno e poi guardo. Non succede niente, t'alzi il giorno dopo è sempre uguale. Posso darti una profezia, poi posso sbagliare. Sì, dimmi. Tornerete insieme te e tua moglie. Credo che questo sia un augurio alla fine. Augurio, ma non so se augurarlo a lei, sinceramente. Si è liberata da questo incubo, però alla fine anche lei, se non trova di meglio, e sarà difficile perché se anche trova di meglio, per una donna è più facile, capito? Lei, se vuole, di uomini che diciamo la frequentano soltanto per le sue grazie fisiche e per l'aspetto questa sessuale. Questa è una frase che mi sono sentito dire. Ne trova quanti ne vuole. Non dalla mia ex moglie, ma mi sono sentito dire. Lei ne trova quanti ne vuole, che discorsi. Lei non ha questo problema, quindi lei può andare avanti a tempo indeterminato. Assolutamente. Avere storie d'amore, fidanzamenti, passioni, cose soltanto di puro trasporto carnale, di viscerale darsi ad altre persone, questo lei può fare. Scusa, non è che lo dico per girare il coltello nella piaga, ma per una visione realistica. Comunque probabili, possibili, certo. Il tuo problema è che in realtà una donna quando si avvicina a un uomo chiede una stabilità. Questo è il fatto. Gli uomini, sai, sono rapaci. Vedono una bella donna disponibile. Dopo 7 mesi, Gianluca, dopo 7 mesi, quella c'ha 15 anni. All'ultimatum, al diktat, o divorzi e mi sposi, o altrimenti niente. Ma tu ci tenevi a questa? Sì, guarda, ci penso sempre. So. Purtroppo noi uomini abbiamo una mentalità poligama, non ci poniamo il problema, noi terremo sempre tutto e non butteremo via niente. Io penso, se lei mi avesse dato più tempo, tanto non sarebbe cambiato niente. Su una cosa non sarebbe cambiato nulla. Lei potrà darti anche 10 anni, fra 10 anni stavi ancora con la moglie, ufficiale, tranquillo, che la mantenevi, e quella che dicevi ti sposo. Ha fatto bene, non avresti mai interrotto l'altro rapporto. Accidenti, no. E allora potevi farlo subito. Ha fatto bene, vabbè. Se dovevi interrompere il rapporto con la moglie, lo potevi far subito, c'hai davanti una prospettiva di felicità. Le ha detto, se questo qua, adesso gli do tempo, fra 10 anni ancora sto qui a chiedergli quando succede. Certamente il rischio che lei ha voluto evitare è stato questo, Chiaro. Tu che vuoi dalla vita? Allora, ti vuoi divertire? Essere capaci. E allora guarda, vai in quei bei, che so, i viaggi nel mondo, sono dei viaggi fatti apposta per single, vai lì, ti fingi single, ne trovi 2000 di signorine che vanno in cerca del fidanzato. Devi prenderle in giro, devi far finta comunque che tu sei libero. Approfittarne biecamente. Sono separato, sono libero. Ma le donne vogliono libertà totale, vogliono la possibilità. Ho capito, ti vogliono o vedovo o celibe o divorziato, perché non vogliono che ci siano ostacoli giuridici al fatto che tu poi ti possa sposare. Ma c'hanno ragione. C'hanno ragione. È duro dirlo, è duro ammetterlo, ma è così. Seccante soffrire e sapere di essere nel torto, è veramente un deprimente. Comunque, vabbè, Tiago, guarda, tu cercando bene, con attenzione e andando a cercare nel posto giusto, onde cercare signorine romantiche cinquantenni che sperano che ancora l'ultima botta di vita sia definitiva, di trovare signorine magari separate, libere, quelle che ne possono più degli uomini, che se tu non sei molto palloso, noioso o anche te ti butti subito sul romantico, magari passano volentieri con te un periodo da amiche, da simpaticamente andate a fare un viaggio, vi vedete ogni tanto, se è tanto bello e tante come dici anche agli occhi loro, intente saranno tutte contente, fattene una ragione, tranquillo, non succede niente, rimane sempre comunque come riserva la moglie che sta lì, che tanto quella ti ripiglia sicuramente. Se stai buono, va tranquillo, bene, ti ripiglia, sì, finché la mantieni e non rompi le scatole, ti ripiglia sempre. Ma sì. Non ti ha lasciato, ti ripiglia, se no ti lasciava. Lei a tutti gli effetti non ti ha lasciato, ti ha allontanato da casa sua per essere libera di fornicare tranquillamente senza di te vicino, ma... Sì. Vabbè, caro, non te la prendere, dai. La no, strada. No, adesso mi vado a tagliare il prossimo autogrill, però. Ma io ti ho aiutato a dare una dimensione realistica moltissimo, al tuo problema. Moltissimo. Stammi bene, buon viaggio, alla prossima. Grazie, ciao. Buon lavoro, ciao, in bocca al lupo. Ciao.